C'è stato qualcuno che in maniera molto acuta ha provato a definire o descrivere i Vangeli con questo titolo, il libro degli incontri e degli scontri con Cristo. Pensarci bene è una definizione, a mio parere, abbastanza azzeccata, perché anzitutto parla di rapporti. I Vangeli è una storia di rapporti, non è una narrazione di principi astratti o di regole o di comandamenti. È una storia di rapporti che possono essere o incontri o scontri. Quanti scontri leggiamo nel Vangelo con i farisei, con la gente comune, con i dottori della legge, con l'impero romano, quanti scontri che costeranno addirittura la vita a Gesù, ma anche quanti incontri di Gesù con la gente e della gente con Gesù. Uno che potrebbe sembrare di minor conto, quella donna che dice: tua madre è fortunata ad avere te. E lo dice alla maniera orientale: beato il grembo che ti ha partorito e il seno che ti ha allattato, tua madre. Fino all'incontro dei discepoli con Gesù. Oggi assistiamo a un bellissimo incontro. Gli incontri, a mio parere, sono determinati dagli sguardi e dalle domande. Devono essere sguardi giusti e domande pertinenti. Si possono guardare le persone in tante maniere, per giudicarle, per disprezzarle, per soppesarle, scartarle, per innamorarsene, per interessarsene. E qui vediamo Giovanni Battista che usa, il Vangelo usa per lui, fissando lo sguardo su Gesù. Non è una parola banale, perché fissare vuol dire porre tutta l'attenzione possibile nel guardare una persona, fissando lo sguardo su Gesù. E alla fine c'è ancora lo stesso verbo: Gesù, fissando lo sguardo su Andrea, su Simone, Gesù gli disse: tu sei. Nello stesso tempo non basta fissare lo sguardo, non basta fare degli incontri con lo sguardo, bisogna fare anche le domande giuste. Troppe volte noi nei nostri incontri facciamo delle domande banali. Provate a pensare quando si incontra un bambino: ciao, quanti anni hai? Perché è importante. Che classe devi fare? Figurati se per lui è la cosa più importante del mondo. Quante domande facciamo alle persone che possono avere un valore secondario? Questi discepoli che seguono Gesù fanno una domanda sola: dove abiti? È una domanda onnicomprensiva questa. Non gli chiedono: che cosa ci dici, che cosa ci rappresenti, che cosa vai dicendo, cosa fai di mestiere, cosa... dove abiti? Perché vuol dire che loro non stanno cercando qualcuno, l'hanno già trovato e vogliono stare con lui. E infatti il Vangelo dice: rimasero con lui quel giorno. Ricordano addirittura l'ora, erano le 4 del pomeriggio, come una madre. Mia madre aveva 5 figli, ma se chiedevi quando era nato l'uno, l'altro, l'altro, ti dice allora dell'uno, dell'altro, dell'altro, dell'altro. Perché l'aveva partorito un incontro così decisivo come il partorire un figlio. Rimasero con lui ed erano le 4 del pomeriggio. Chiediamo al Signore di avere anche noi questa fortuna, cari amici, di poter avere lo sguardo che incontra Gesù, non che giudica Gesù. Io sono veramente, non saprei usare la parola, amareggiato, disgustato, no, perplesso. Un mare di gente giudica Dio. Giudicano il Papa quasi tutti, come se loro fossero dei padri eterni. Ma giudicano Dio. Quanta gente io incontro che loro hanno la loro religione, ma per me, tant'è vero che io dico, forse tu hai inventato il quinto Vangelo. Pensate che siano 4 i Vangeli? Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni. No, no, c'è il quinto Vangelo, il Vangelo secondo me. Quanta gente, ah, ma secondo me, scrivi un altro Vangelo, va. Che ci conceda il Signore anche per l'intercessione di questi discepoli e per l'intercessione di Sant'Agostino, varrebbe la pena conoscere bene la sua vita, uno che ha incontrato Gesù e ha lasciato, io ho condiviso con tante persone, miei corrispondenti su WhatsApp, ho condiviso 2 pagine straordinarie delle confessioni di Sant'Agostino. Ci conceda il Signore, per intercessione dei discepoli e per intercessione di Agostino, di fissare lo sguardo su Gesù, e ci conceda il Signore di fargli la domanda giusta: dove abiti, che io voglio venire a stare con te?